Sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no. Yeah. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that something's got a hold on me here. E buonasera, buonasera a tutte, benvenute alla nostra 117esima trasmissione. Oggi qui in studio siamo Caterina, che sono io, e Rosina. Come state? Noi stiamo bene, anzi benissimo, dopo aver passato 4 giorni a Bologna al Festival di Immaginaria. E ci siamo proprio ritemprate, e chi di solito viene a questo appuntamento annuale sa di cosa sto parlando. Posso dire una cosa, Rosina, però? Posso, sicuro? Prego, prego. È tanto che la voglio dire. Lo so che corro il rischio di diventare forse un po' antipatica, ma lo però... Sei già. Grazie, molto gentile. Io devo essere sincera, anche perché questa è una mia regola di vita, sincera con me e con chi mi sta vicino. Dunque, il fatto è che ci aspettavamo qualche email in più da parte vostra, eh? Come mai non arrivano, o quantomeno non ne arrivano tante? Siete forse timide o non vi ricordate il nostro indirizzo? Allora, noi speriamo che si tratti di questo, che non ricordate il nostro indirizzo, allora ve lo ridiciamo, è contatti@clrbp.it, ma potete venire anche a visitare il nostro sito, che è www.clrbp.it. E non fischiare dentro il microfono, perché si sente perfettamente. È aperto. Grazie, è aperto, certo, come al solito, anche perché siamo in diretta. Dunque, anche perché se tu parli dentro il microfono, io avendo la cuffia me lo risento rimbombato nelle trombe di Eustachio. Dunque, saremo comunque, noi saremo sempre disponibili a mandare tutte le email per quanto riguarda la comunicazione delle nostre iniziative a tutte coloro che ci hanno richiesto di essere informate, quindi potete anche semplicemente lasciarci una richiesta di informazione, e la nostra Annalisa, la meravigliosa, splendida Annalisa, che cura tutto l'aspetto legato a internet, provvederà a mandare le email. Dunque, le iniziative sono tantissime, sono proprio un sacco, come si dice a Roma. Ve ne parleremo nella consueta rubrica degli appuntamenti, anche se ai noi ci siamo dimenticate il CD delle sigle, e quindi abbiamo ovviato con l'originale del film per fare la sigla. Faremo lo stesso per la sigla finale, ma gli appuntamenti proprio non ci riesco a rifarli. Faremo appuntamenti, però non mancateli, perché sono veramente tantissimi. E soprattutto non mancate l'occasione di farci tanti trillini per tenerci compagnia. Dunque, oggi la puntata parlerà del Festival di Immaginaria, naturalmente, e manderemo in onda alcune delle interviste che abbiamo realizzato noi per le nostre trasmissioni qui con voi. Ma cominciamo subito ascoltando il primo brano, che la settimana scorsa ha ricevuto parecchi trillini, quindi mi sembrava carino riproporvelo. Si tratta di una canzone interpretata da Macy Gray ed Erika Badu dal titolo Sweet Baby. We got, baby. They may not see the love in you, but love I do. And I'll stay. E allora, eccoci qua e partiamo immediatamente con il resoconto di questo 11° Festival Internazionale del Cinema Lesbico. Cominciamo con i numeri. Quest'anno la partecipazione al festival è stata, come al solito, piuttosto vasta, anche se ai noi purtroppo ci sono state un pochino di defezioni, insomma, circa 200 donne in meno, diciamo, secondo l'analisi delle organizzatrici del festival, questo è dovuto non ad un calo di interesse rispetto al festival stesso, ma purtroppo, come tutte voi ben sapete, ad un problema economico. L'euro ci ha ammazzate tutte quante e quindi sostenere, diciamo, un impegno economico anche gravoso per partecipare al festival purtroppo non è stato alla portata di tutte. E vabbè, fin qui questi numeri. Comunque la partecipazione si aggira comunque intorno alle mille donne più o meno, e quindi direi che come risultato è insomma un risultato più che positivo. E dunque, per quanto riguarda i lavori in concorso, come al solito questi lavori sono stati divisi in tre categorie, quindi sperimentale, documentario e narrativo, e vi diamo i titoli dei lavori che hanno vinto. Cominciamo con lo sperimentale. Si tratta di Blue Tuesday, Martedì Triste, un film della durata di un film brevissimo di 2 minuti e 46 secondi di Liza Nielsen. Si tratta di un Yes. Si tratta praticamente di un lavoro realizzato con la tecnica del fermo fotogramma, e questa animazione affronta il tema dell'autoerotismo praticato in un momento di depressione. E l'autrice si domanda che cosa succede se i ricordi della ex hanno il sopravvento. L'unica protagonista di questo singolare lavoro è una Barbie. È troppo carino, veramente, veramente troppo carino. Bene, come avete sentito, la sora Caterina ha gradito moltissimo. Dunque, per quanto riguarda invece il film documentario, ha vinto Un circo a New York, Un circo a New York, di Frederic Pressman, una giornalista francese che ha vissuto per diversi anni a New York. E questo è un film documentario che tratta praticamente una storia molto particolare di una donna che si chiama Jennifer Miller, è un personaggio fuori dal comune, è una donna che ha deciso di non radersi più, quindi va in giro con questa sua barba nera, fluente, molto, molto carina, insomma una donna un po' particolare. E da 5 anni a questa parte, quindi accompagnata dalla sua troupe del circo Amok, Jennifer Miller offre ogni estate, nel mese di giugno, negli angoli più nascosti di New York, degli spettacoli all'aperto gratuiti, mescolando in un cocktail esplosivo tecniche del circo classico, estetica kitsch e gay e critica sociale. Jennifer parte alla ricerca del pubblico popolare. Durante la tournée del 99 i movimenti di resistenza contro la politica del sindaco Rudy Giuliani si intensificarono. Negli slams degli esclusi di sempre, questi saltimbanchi occupano lo spazio pubblico reinventando una forma di impegno allo stesso tempo ludico e politico. È un documentario della durata di 54 minuti, molto interessante, di produzione francese. Oh, E siamo al pezzo forte, il lavoro che ha vinto il genere narrativo, è un lavoro olandese del 2001, la regista si chiama Claudia Pascal Simons, speriamo di averlo pronunciato bene. Naturalmente la pronuncia è sempre il nostro grave cruccio. E dunque il film si intitola You Too, quindi anche tu. E dura circa 25 minuti ed è la storia di una giovane ragazza che lavora in un negozio di parrucchiera ad Amsterdam gestito da sua madre. E le due sono originarie del Suriname e praticamente la pellicola narra del faticoso coming out della protagonista, di Sandra, che scoprendosi lesbica non trova il modo di dirlo alla madre. E ai noi, questa evidentemente è una storia comune, facilmente conoscibile in tante storie, a diverse compagne. E nella divertente atmosfera fatta di chiacchiere fra donne, i maschi vengono spessissimo nominati e alcune delle clienti si domandano come mai Sandra non ne abbia ancora uno, non abbia ancora un compagno. Ma Sandra deve fare i propri conti con la madre e la madre a tutto pensa all'infuori che al fatto che la figlia possa essere lesbica. E quando finalmente lo capirà, senza che siano state ancora pronunciate le fatidiche parole, le comunicherà la sua comprensione attraverso un gesto simbolico che farà inorridire le clienti. Non ve lo raccontiamo perché aspettiamo che questo venga film da noi. Venga da noi. Tears away, I need your arms to hold me now. The night's so unkind. Oh, e ancora continuiamo a leggere ovviamente dal catalogo di Immaginaria, l'ultimo film, si tratta di uno sperimentale che ha vinto il premio speciale di Immaginaria, una sorta di premio della critica possiamo definirlo, si tratta di Bridge Passage, quindi Passaggio sul ponte, di Nicole Chang, che è una giovanissima nata a East York nel 75, che si occupa di la sua professione è la macchinista elettricista di scena e quindi è un mestiere che fa assolutamente parte del mondo del teatro, del cinema, è del mestiere, se non mi veniva proprio. Dunque il film è di produzione canadese del 2001. E vi leggo la trama. Un ponte è fatto per mettere in comunicazione due zone fisicamente distanti e inavvicinabili. Un ponte garantisce il transito nei due sensi, ma vi si può anche sostare. Dall'alto del ponte la visuale è molto diversa da quella che si ha standoci sotto. È interessantissimo. Utilizzato come metafora, il ponte diventa il cordone ombelicale difficile da recidere, il legame che non si spezza anche se ci si allontana. A seconda di come viene percepito, un ponte divide o unisce. E angoli di ripresa diversi suggeriscono una molteplicità di sguardi e di stati d'animo. Un ponte può essere il luogo della separazione ma anche del riavvicinamento. Questo per quanto riguarda i titoli, e adesso non vi tediamo oltre e quindi vi mandiamo un simpatico brano musicale delle Spaventapassere che si chiama Pensier Meravigliuse. In piemontese, lo stavo dicendo. In piemontese. Emmi. Sì. E chi la fra mie di mi vuoi? Sai me se vuoi. Mi che vuoi? Le mani. Sei meraviglioso! Ben fora da Sion! Ria è una questione d'amour, mei statue! In siculo! E tu! E moi! palesi stretch. At and now. Simpaticissime come sempre le spaventapassere. Dunque, adesso volevamo mandare la prima intervista che abbiamo fatto, alla quale io sono particolarmente affezionata, perché riguarda un documentario che a me è piaciuto veramente tanto ed è stato fatto da Cristina Uolo e Federica Tuzzi, che però non ha vinto nessun premio. È veramente molto molto bello, è stato girato in Nepal, ma ascoltiamo cosa ci hanno detto Cristina e Federica. Allora, siamo ancora in Immaginaria, è il 2 di marzo, l'ultimo giorno, siamo con Cristina Uolo e Federica Tuzzi, che hanno presentato un documentario che peraltro è in concorso è stato un lavoro molto importante e molto grosso, quindi chiediamo a loro qualcosa a questo proposito. E inizia Federica, quindi da chi è stato commissionato questo lavoro o è nato, come è nato insomma? Ok, il lavoro è nato, o meglio l'andata in Nepal è nata dal fatto che AIDOS, cioè Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo, ci ha contattate per fare questo documentario che riguardava un consultorio nella valle di Kathmandu che loro hanno impiantato 3 anni fa. Una cosa che ci tengo a dire è che AIDOS ci ha contattate, noi non conoscevamo direttamente nessuna dell'associazione, perché loro erano in contatto con una delle organizzatrici del Festival Immaginaria, dove siamo, e Deborah ha dato loro il nostro nome. Questo ci tengo a dirlo perché mi sembra un buon esempio di empowerment fra donne, quindi la possibilità all'interno della scena italiana, ma anche proprio del mondo cinematografico e documentaristico, mi sembra importante come riconoscimento. E, anche perché poi di questa rete femminile noi abbiamo beneficiato non solo per la realizzazione del video che AIDOS ci ha commissionato, ma anche per quest'altro video che è invece il nostro sguardo sul Nepal, cioè il racconto del nostro viaggio in Nepal, sicuramente facilitato dalla rete di relazioni capillarissima che l'AIDOS aveva messo su nella valle di Kathmandu e che ci ha consentito di entrare nelle case delle donne, in situazioni private anche drammatiche talvolta, nelle quali non saremmo mai potute entrare, e che sicuramente ci ha consentito di avere accordata a priori una fiducia che era indiretta per il fatto che venivamo accompagnate da loro. E stando in Nepal è nata la voglia di raccontare il nostro viaggio, quindi di raccontare di noi attraverso il Nepal, di raccontare di noi Federica e Cristina, ma anche due donne, due occidentali in viaggio verso il mitico Oriente, che poi così mitico per alcuni aspetti non si è rivelato, cioè proprio a livello di impatto visivo iniziale, cioè voi immaginate una Kathmandu strapiena di smog, di traffico, come proprio da paese di sviluppo in cui le peggio macchine vengono messe lì sul mercato, e in cui piano piano, tentando di muoverci in questo ambiente, abbiamo cominciato a registrare, tanto per cominciare, delle assenze, l'assenza femminile in luoghi di culto, per esempio nei luoghi adibiti alla cremazione, e quindi piano piano abbiamo cominciato a chiedere alle donne com'era la loro vita, effettivamente di quali diritti disponevano, anche poi indirettamente, cioè tentando di trovare un linguaggio per interrogarle, quando spesso poi ti ritrovi ad avere a che fare in paesi in cui la coscienza politica magari femminista non è poi così alta, anche sicuramente confusa dal fatto che la povertà riguarda uomini e donne in quel paese, le donne sicuramente non hanno diritto di proprietà, però poi l'urgenza primaria non è forse tanto quella di rivendicare il loro diritto di proprietà, quanto magari di avere da mangiare anche per loro e per i propri bambini, quindi come dire, la coscienza femminista è uno di quei paesi in cui viene in secondo piano rispetto proprio alle urgenze primarie di un popolo che non ha mezzi di sussistenza. Io volevo chiedere una cosa, intanto suppongo che questo lavoro sia durato un bel po' di tempo, perché per riuscire a fare una documentazione così approfondita come avete fatto voi, certo non siete stati là una settimana, no? E come sempre succede quando uno va a scoprire la realtà di culture molto diverse dalle nostre, va ad impattarsi con quella che è la condizione della donna, inevitabilmente, vuoi perché abbiamo alle spalle una storia personale che ci abitua a tener conto della situazione delle donne, no? Allora mi stavo chiedendo che impatto ha avuto su di voi il doversi necessariamente calare con una realtà così diversa e dove ancora la donna, quando ha le mestruazioni, è considerata infetta, no? Non può toccare il marito, non può toccare i figli, non ha diritti, cioè anche una cosa così minimale è discriminante, no? Quindi che impatto ha avuto su di voi il dover entrare in contatto con una realtà così diversa da occidentali, come giustamente diceva Federica prima? Ma innanzitutto, rispetto alla prima domanda, se siamo state molto tempo o poco tempo, in effetti siamo state un tempo brevissimo, cioè nel senso che il tempo accordato era un mese. Ah. Ma dopo una settimana, allora, no, ma aspetta, dopo una settimana che eravamo lì è scoppiata la guerra civile e quindi un clima terribile di coprifuoco e di tensione, ma soprattutto, a parte la sparizione dei turisti che inondavano Kathmandu e che nel giro di 3 giorni erano spariti, per cui le strade che prima di solito erano affollate la sera, non si camminavano, vuote, quindi questo ci ha fatto paura. E poi le persone, gli uomini e le donne del luogo avevano una paura incredibile, per cui questo ti faceva ancora più paura, no? Se loro che stavano lì, che voglio dire, vivevano a casa loro, avevano paura, non ci volevano accompagnare oltre le 9 di sera in albergo, per cui... Certo, pesante. Sì, di fatto siamo state 15 giorni perché poi ci hanno, come dire, cambiato il biglietto, sì, cambiato il biglietto dal pomeriggio alla sera, dal pomeriggio alla mattina, e noi eravamo fuori, quindi effettivamente siamo state 15 giorni e direi 15 giorni di impressioni. Cioè, nel senso che noi pensavamo, ma come dire, cercavamo di tradurre più che altro le impressioni, no? Cioè, io scrivendole su un quaderno che lei mi aveva regalato e lei, voglio dire, fotografandole col pensiero e poi parlando, ma non credo che quel momento sia stato un momento di elaborazione concettuale. La elaborazione concettuale è venuta dopo, perché lì, voglio dire, quello che vivevamo, abbiamo partecipato a un workshop sui problemi di schiena, no? Però i problemi di schiena che le donne, voglio dire, che avevano problemi con la schiena, così, che rivelavano invece dei problemi all'utero, dei problemi con le mestruazioni, problemi che poi erano quindi di convivenza, diciamo, con che ogni donna aveva con il proprio marito, con la propria situazione, in cui comunque erano, come dire, caricate di tutta la fatica dei lavori, della gestione, avevano, come dire, rapporti sessuali non consenzienti, ma non usavano, voglio dire, sto dicendo questo per spiegarti che il livello elementare era quello di non potersi permettere di comprare pannolini, assorbenti, quindi usavano, come dire, stracci raccolti così, qualsiasi genere, senza lavarli, senza, quindi era talmente forte quel tipo di impatto così, come dire, primordiale, primitivo, che voglio dire, come dire, come se in prima battuta non c'era una possibilità di confronto tra noi e loro, era un abisso, perché voglio dire, loro non si potevano permettere di comprare un assorbente, l'UB non lo potevano usare perché comunque significava far entrare qualcosa dentro, quando loro invece il rapporto con la propria vagina, voglio dire, non c'è. Certo. Capisci? Quindi quando ti incontri con realtà che così d'impatto hanno c'è un tale scarto, non ci puoi lavorare lì per lì. Sì, lì per lì. Sì. E infatti il nostro lavoro più grosso, che è durato mesi, è stato proprio quello di risalire da questo impatto impressivo a un tipo di conoscenza, di elaborazione, e quindi è poi stato un grosso lavoro sulla voce narrante, che in qualche modo cercava più di condensare o comunque di staccarsi da quel piano così primordiale di fronte al quale che puoi dire, che puoi fare, no? Cioè puoi solo non stare a bocca aperta, dire oddio, ma come ci facciamo a incontrare? E poi invece ti rendi conto che ti puoi incontrare, perché poi la condizione è la stessa, la provenienza è la stessa, però devi astrarre da quel piano, capito? Certo, certo. Quindi fare questo tipo a di me, lavoro. A me, per esempio, ha colpito molto la ragazza, quella che rideva soltanto, che c'era Vimala. È stata devastante, sì, per me, no? Perché è come se io avessi messo a fuoco che probabilmente, come dicevi tu prima, loro hanno dei problemi che sono veramente molto grossi, no? E quindi la concettualizzazione di questi problemi non c'è, però probabilmente una sua forma di reazione c'è stata, che è poi stata quella di andare fuori di testa, no? Però una ribellione comunque c'è stata. Per me è stato devastante. Quella è stata una cosa. Cioè, quel sorriso che lei faceva, è questo che volete di me, è questo vi do. È incredibile. Sì, era scioccante. Io quando sono uscita da lì, ho detto, guarda, io sono scioccata, cioè sono sciocca, profondamente turbata, perché da quello sguardo, da quella, capito, così, fisionomia che sembrava serena, ma che invece non. Che ti piacerebbe fare, e più di una volta, come diceva Federica poi ieri, no? Con la donna allucinata ti senti veramente una cogliona a fare delle domande che sono, appunto, che partono, come dire, da un livello che è diverso, ma economico, da un mondo diverso, cioè proprio veramente la prima base economica la base economica che costruisce anche un pensiero, no? E quindi da lì non, cioè, quindi difficile proprio invece scendere lì, spogliarsi, no? Allora quando dici quanta libertà c'è nella mia vita, perché ma infatti proprio anche il discorso, scusa, legato alle libertà, poi io essendo lesbica mi viene da pensare, cioè se questa è la condizione della donna, no? Immagina una che ha dei desideri che possono essere diversi, cioè non ne pensiamo nemmeno, insomma. Infatti quello che esprimeva lei è questa sorta di inattraversabilità che secondo me in qualche modo un po' tutte esprimevano, nel senso che probabilmente sono, e dico probabilmente perché noi abbiamo anche parlato poco con le donne locali, perché tanto per cominciare non parlavano inglese, quindi doveva necessariamente avvenire la mediazione culturale da parte di operatrici che erano impegnate poi in altri settori e quindi non ci potevano accompagnare, e forse proprio quel livello di elaborazione l'abbiamo tenuto paradossalmente più con gli uomini, soprattutto più, uomini giovani, anche per cercare di sentire qual era proprio il polso della situazione maschile, cioè ma possibile che anche un giovane ragazzo di 18 anni per esempio abbia le stesse convinzioni di suo padre rispetto alla condizione femminile? E abbiamo cercato di parlare con quelli che mostravano se non altro un desiderio di conoscere un'altra possibilità, tanto che alla fine un gruppo di adolescenti ci ringraziavano quasi con le lacrime agli occhi, perché noi parlavamo di sessualità, per esempio, ma veramente qua nessuno fa l'amore prima del matrimonio? Ed erano imbarazzatissimi i maschi nel rispondere, nel parlare di cioè l'argomento sulla sessualità, assolutamente. Quindi con alcuni maschi abbiamo cercato di parlare della condizione femminile, cioè come vedete le donne, è giusto che le donne prendano la metà dello stipendio di vostro del marito, per esempio, pensi che sia... Esatto, quindi abbiamo questo livello di elaborazione, abbiamo tentato di averlo con gli uomini. Secondo me, lo dico adesso, non l'ho pensato prima, forse... Ricollegandomi a Bimola, proprio per questa sorta di inattraversabilità, cioè perché sono tali e tanti i compromessi a cui una donna deve scendere per poter vivere all'interno di quel contesto sociale ed essere accettata, che spingere troppo sul lato della consapevolezza significa forzare un qualcosa che non può essere forzato, nel senso che lì dalla contadina all'avvocata si alzano alle 5 del mattino e fanno la puja, che è un rituale religioso per la salute del marito. Quindi il livello di... fanno un giorno di digiuno la settimana per la salute del marito. Abbiamo incontrato donne inchiodate praticamente dietro delle sbarre, immobili, digiune da 5 giorni e 5 notti per il bene della famiglia. Allora, per fare scelte di abnegazione di questo tipo devi arrivare a un livello di corazza rispetto a una serie di questioni che ti rendono un po' inattraversabile. Tanto che una cosa a proposito delle domande sbagliate... Perché io ho fatto domande sbagliate, ad esempio relative ai sogni, cioè sul sogno abbiamo molto lavorato, cioè è venuto fuori che la dimensione del sogno lì non esiste, è un lusso occidentale, perché primo perché non è una società legata all'idea del cambiamento, del progresso, della possibilità del riscatto, è una società mite, fondata sull'accettazione profonda della condizione attuale, del qui e ora. Quindi proprio culturalmente dà anche una dignità diversa a quella che a noi può essere sembrata soltanto un'accettazione supina. Però a parte sul discorso del sogno, per esempio, c'era un'esperta internazionale che ha fatto un gruppo chiedendo quali erano 3 sogni delle donne. Bene, poi hanno fatto il giro e i sogni erano un computer, la casa, una macchina, poi quella dopo la macchina, la casa, far studiare mio figlio, quella dopo far studiare i miei 2 figli, la casa, avere la macchina, cioè anche in un ambito, come dire, aperto, hai 3 sogni, rischia qualcosa di... era impossibile chiederglielo, e parliamo di donne, erano tutte, tutto staff del consultorio dell'Aidos, quindi donne che da 3 anni comunque facevano gruppi fra loro, ricevevano training sull'autostima, quindi un livello di emancipazione inimmaginabile per le altre, eppure per loro era difficile lavorare sul piano del desiderio, cioè il desiderio è quello che oggi manca per avere una vita più semplice, esatto. Quello, almeno quello che intendiamo noi. Sì, siamo d'accordo. Va bene, allora grazie, perché le cose che ci avete detto sono assolutamente interessantissime, e vogliamo ricordare il titolo di questo documentario e quando sarà possibile vederlo, oltre che qui a Immaginaria, cioè che abbia una diffusione magari per le donne. Il titolo è Papaioni, creature morale, che è un titolo tratto poi dalle sacre scritture indù, cioè papaioni significa creature immorale, che sono le donne che siamo noi, e quindi qui era il punto poi di unione effettivamente tra loro e noi, no? Siamo tutte creature immorali. Quando si potrà vedere? Per ora non lo sappiamo. Per ora non lo sappiamo, però ci stiamo muovendo per... Forse proprio a Roma è una rassegna che verrà organizzata a maggio, che adesso non mi ricordo come dalle si... Dalle tecniche. Ah, ok, perfetto. Sì, deve essere una cosa più... Allora avrà una grande diffusione, almeno sul piano della notizia per noi. Okay. Grazie. Grazie a voi. Grazie a Federica e grazie a Cristina. Ciao. E quella che stiamo ascoltando è Daido, e il titolo della canzone è il nostro ringraziamento a Cristina e Federica, il brano si intitola Thank You. Not so bad. Bene, dopo questa canzone mandiamo la prossima intervista, perché ad Immaginaria, ve lo ricordiamo, non ci sono soltanto film, ci sono anche larghi e ampi spazi dedicati all'arte, quindi mandiamo questa intervista a una donna che ha esposto i suoi quadri ad Immaginaria, sto parlando di Pina Nuzzo. Da noi molto conosciuta, perché abbiamo fatto, sì, abbiamo contatti, la vediamo, e comunque adesso ci parlerà del suo lavoro. Se riesce a partire. Allora, siamo Immaginaria, oggi è il 1° marzo e tra un film e un altro incontriamo le donne che arrivano qui presso questo accadimento importante nazionale. Siamo con Pina Nuzzo, che è una delle artiste espositrici all'interno dello spazio del festival, e che già abbiamo peraltro incontrato, perché è una nazionale e che ha alle sue spalle una, e anche di fronte, una grande attività politica e artistica. A questo punto quello che ti chiediamo, come suggerisce anche Caterina, è perché hai scelto di esporre le tue opere qui, che significato quindi ha per te? Io, da quando ho cominciato a dipingere, nel senso che ho dato alla mia attività un'organizzazione del lavoro, ho sempre scelto di esporre nei luoghi delle donne, quindi questo l'ho sempre fatto, e in tutte le occasioni che si sono presentate l'ho fatto molto volentieri, perché sono convinta che il rapporto che si stabilisce tra l'utenza, cioè tra chi guarda il quadro e chi produce l'opera, è molto importante. è talmente importante che non è neanche secondario rispetto all'esperienza che io ho con la politica. È anche però molto difficile, perché si corre il rischio, quando si fa politica, di fare delle opere ideologiche. Questo vale anche per il cinema delle donne, no? Il rischio di voler per forza dire alcune cose porta poi a dirle forse anche male dal punto di vista del linguaggio artistico. Allora, la mia sfida è questa, di misurarmi con il linguaggio dell'arte, cioè di misurarmi complessivamente con tutta la storia dell'arte, ma nello stesso tempo di avere uno sguardo mio, e il mio sguardo non può però prescindere dallo sguardo dell'altra. Da questo punto di vista io condivido molto l'affermazione di Teresa De Lauretis quando dice che per avere una lesbica ci vogliono due donne, ma questa affermazione si può anche prendere e farla valere per tutte le donne, nel senso che il corpo di una donna non esiste al di fuori di uno sguardo. Se uno sguardo femminile è un corpo in un modo, se uno sguardo maschile, che anche questo esiste nella realtà delle donne, è un altro corpo. Il punto è come un corpo di donna può essere raccontato da un'altra donna. Sì. A me mi veniva in mente, dopo aver letto un po' di corsa, mi riservo di leggerlo con un pochettino più di calma, l'intervento che tu hai fatto al congresso, il passaggio per esempio legato al desiderio. Allora io come politica, no? Come lesbica, parto dal desiderio, quindi mi trovo assolutamente d'accordo. Volevo un approfondimento rispetto al desiderio che tu associ, credo almeno di aver capito così, alla maternità. Spiegami un attimino di più, perché per me il desiderio non è vincolabile ad un aspetto soltanto, no? Quindi se per piacere mi puoi dare una spiegazione un pochettino più approfondita, perché mi interessa molto. Sì. Caterina parla di un'affermazione che io ho fatto nel mio intervento introduttivo alla seconda tappa del congresso dell'UDI a Modena. L'ultima tappa sarà in aprile a Roma. In questo mio intervento io dico che oggi le giovani donne hanno accesso al desiderio, nel senso che rispetto alla mia generazione, per esempio, le donne possono con più libertà dichiarare il proprio desiderio, nominarlo. E questo è uno dei desideri. L'altro desiderio è il desiderio di maternità, nel senso che la maternità è svincolata dalla paura dell'aborto, perché l'accesso alla contraccezione rende il desiderio di maternità un desiderio, mentre prima era la paura della maternità, adesso è il desiderio. Però mentre il desiderio sessuale è un desiderio che, proprio perché è libero, è libertà, non è un desiderio che uno si porta dietro per tutta la vita. Questo vale qualsiasi forma di desiderio. Cioè, quando si sceglie un rapporto, noi sappiamo che proprio in virtù del fatto che c'è libertà, può anche essere un desiderio che finisce a un certo punto. L'unico desiderio che è un desiderio senza ritorno in qualche modo è il desiderio di maternità, perché una volta che tu decidi di avere un figlio, da quella cosa non è che torni indietro. Cioè, nel momento in cui decidi che appunto è desiderio, non obbligo, alla maternità, è un desiderio di non ritorno. Questo intendevo dire. Sì, l'altra cosa invece, abbiamo osservato i tuoi quadri e la cosa che almeno personalmente mi ha colpito è questa presenza fortissima del corpo. In tutti i quadri quello che viene fuori è la grande materialità. E questo mi rimanda un calore immenso, perché la sensazione che ho avuto è di qualcosa di sconvolgente, nel senso di avvolgente e caldo. Per te sono vivi, l'altra sensazione del non freddo, quindi del vivo. Per te com'è produrli? Io ti ringrazio per quello che dici, perché è anche l'esito che voglio ottenere. Quando ho deciso di dipingere, di fare i conti nella mia vita con l'essere un artista, cioè perché questo uno deve decidere a un certo punto, richiede una disciplina questo, il fare fare la figura era fuori dai tempi, perché in qualche modo tutte si muovevano, o comunque la tendenza era quella di muoversi sull'astratto o al massimo sul concettuale, insomma in un altro modo. Io invece sono convinta che per una donna, almeno per me, era fondamentale indagare fino in fondo il rapporto con la figura, perché io credo che le donne ancora non abbiano detto tutto quello che possono dire. Cioè, penso che l'astratto è un punto di arrivo dell'arte degli uomini, proprio perché hanno attraversato il corpo delle donne. Gli uomini si sono potuti raccontare attraverso questo corpo femminile. Ma quando una donna vede un corpo nudo nell'arte, sa bene che non è il suo corpo, ma nello stesso tempo non si può dipingere un corpo femminile nudo prescindendo dall'alto livello artistico che l'arte patriarcale ha raggiunto. Quindi per me raccontare, descrivere, nel senso di mettere sulla tela un corpo che si rifà a un altro sguardo, perché questo è il punto, certo. Quello che dicevo all'inizio, gli uomini hanno guardato questo corpo per parlarsi tra di loro e hanno quindi inchiodato la rappresentazione del femminile in un modo che poi alla fine ci obbliga, che ci obbliga il nostro immaginario. Spostare l'immaginario è difficilissimo, e quindi questo io lo faccio anche attraverso la politica, perché spostare è un lavoro faticosissimo, bisogna vedersi per come si è. Quindi la necessità che ho avuto di restituire una visione del corpo delle donne attraverso il mio sguardo, ma anche quello di altre donne, è la mia fatica. Se io ci riesco, vuol dire che non è una fatica che si fa in vano e che l'immaginario si può cambiare. Sono anche convinta che l'arte delle donne che la politica delle donne non riuscirà a sedimentare tra tutte le donne se noi non cominceremo a fare i conti anche con l'arte. Certo. Di questo io sono talmente convinta che penso che certe cadute a picco della politica, dopo momenti magari altissimi di elaborazione, hanno molto a che fare con questa incapacità di vedere che non sappiamo essere committenti, referenti, soggetti attivi nell'arte, perché non è soggetto attivo solo chi dipinge, è soggetto attivo chi si fa committente, chi compra un quadro, chi capisce che l'arte è anche un modo di comunicare tra di noi. Certo. E un altro elemento che tu hai toccato ora e che credo che per noi sia estremamente significativo è la costruzione del simbolico, no? Allora, questa costruzione del simbolico avviene, purtroppo noi siamo immersi in un altro simbolico, un simbolico che passa, appunto, come hai detto tu, sui nostri corpi, attraverso i nostri corpi, che sono la merce di scambio o quant'altro, rispondono a certe leggi di mercato. Quindi riattraversare il linguaggio in tutte le sue forme, che non è soltanto, appunto, come tu dici nel tuo documento per il congresso, che non è soltanto il parlato, no, non è soltanto lo scritto, quindi non è soltanto quello che si può verbalizzare, ma è tutto quello che si può rappresentare. E se non riprendiamo in mano la nostra autorappresentazione, questo è un nostro pallino, noi come lesbiche, almeno io e Caterina, che veniamo da esperienze varie in tanti gruppi, questo concetto ce l'abbiamo molto presente, è lo stesso quello che fanno le compagne di Immaginaria con il festival, no? È la rappresentazione, la nostra rappresentazione e soprattutto la nostra autorappresentazione. Quindi noi ti siamo debitrici per quello che fai. grazie a voi comunque. Sì, soltanto una domanda che spero sia una promessa di poter rifare la tua mostra anche a Roma, alla Casa Internazionale della Donna. Sì. La condizione lo permette, se lo realizziamo bene ci farebbe molto piacere poter ospitare la tua mostra. Sì, io mi fa piacere che tu me lo chieda, ma ancora più piacere mi farà l'occasione di parlare, perché io credo che non si costruisce simbolico se attraverso le immagini non ci mettiamo il rischio sulle parole, cioè il ritorno che io voglio attraverso le parole è la possibilità che altre donne esprimano un giudizio sull'arte, perché questa è anche un'altra cosa, si può esprimere un giudizio sull'arte andando al di là del dire mi piace o non mi piace, e questo è un ritorno per me per poter andare avanti, quindi è un impegno reciproco. Va bene. Noi ti ringraziamo Pina e grazie. Allora l'appuntamento è a Roma. D'accordo, ci vediamo a Roma. Ciao. Ciao, grazie. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. I just wanna tell you right now that do believe that something's got a hold on me here. Yeah. Oh, it must be love. Oh, something's got a hold on me right now, child. Non ve ne andate, eh? Non ve ne andate, perché come vi avevamo promesso abbiamo diversi appuntamenti, no? Quindi rimanete ancora con noi, dateci il tempo di prendere i vari foglietti che ve li diciamo tutti quanti. Allora, dunque, il nostro consueto appuntamento del giovedì, questa settimana prevede la proiezione del film Cuori nel deserto, però volevo informarvi che tutte le iniziative di Les Bollywood di questo mese hanno un filone particolare, che è quello dal libro al film. Noi siamo andate a cercare tutti i film che erano stati tratti da libri. Quindi il 6 marzo alle 21.30 ci sarà la proiezione del film Cuori nel deserto. Ricordo l'indirizzo, che è al Centro Femminista Separatista di via San Francesco di Sales 1B a Roma. Per informazioni potete telefonare allo 06 68 64 201, oppure mandandoci un messaggio, un'email, ecco, al nostro indirizzo di posta elettronica, che è contatti@clrbp.it. Ah, una cosa importantissima, ricordo che l'ingresso chiaramente è riservato alle donne. E per l'8 marzo al Centro Femminista Separatista una serie di appuntamenti, e ve li diciamo subito tutti quanti. Dunque alle 19 dell'8 marzo, quindi sabato, ci sarà la presentazione del libro Detto e Non di Valeria Santini, Almanacco di vita lesbica. Si tratta di una antologia dei pezzi migliori che Valeria Santini ha scritto nel corso di questi ultimi anni per Bollettina del CLI, toccando vari argomenti come la vita di coppia, la comunità, il mondo politico, l'attualità, insomma, cronaca, pamphlet, eccetera, eccetera. E questo alle 19. Alle 20 ci sarà una cena di autofinanziamento, mentre per le 22 è previsto uno spettacolo teatrale di Eleonora Dall'Ovo, che farà due pezzi. Il primo si chiama Spiragli di coppia e il secondo Le dita. Alle 23.30 invece ci sarà un grande dancing per le Babyons, e non solo, durante la festa danzante ci sarà anche l'estrazione della lotteria, che prevede ben due biglietti per il concerto di Fiorella Mannoia. Quindi vi aspettiamo numerose al Centro Femminista Separatista sabato 8 marzo. E sulle note di Cyndi Lauper con il brano True Colors, il coordinamento Lesbiche Romane vi dà appuntamento alla settimana prossima con la replica di questa trasmissione. Grazie per i trillini, speriamo di vedervi giovedì e ringraziamo tutte le donne che ad immaginaria e fuori immaginaria ascoltano la nostra trasmissione, ci rilasciano interviste e ci supportano oltre che a sopportarci. Ciao. Like a wave.